vita è come un film in bianco e nero. Quasi non ci credo a quello che vedo, a quello che scrivo. Parlo di una realtà contorta, dove la politica è rotta, dove la miseria è sulla bocca di chi come me vive una vita storta. Tra alti e bassi è difficile rialzarsi, seguire i passi. Sto negli angoli bassi, dove la quotidianità qua ne abbrassi. Difficile cercarsi, impossibile trovarsi. Un buco troppo scomodo da dividere con gli altri. Essere a forza, tappami la bocca, perché di rime ne ho una scorta. Parlo di me, dei miei simili, di chi vive nei limiti. Non chiedermi perché non ami, dopo che ho toccato l'odio con le mani. Ho chiesto aiuto al Signore, ma nessuno risponde. Questo è un film dell'orrore, tra luci e ombre. Guardo sempre tre volte di più chi ho di fronte. Cinema, visione poco nitida, qua la risoluzione minima. Una presa per il culo costante, programma pesante, trasmissione poco esaltante. Cinema, visione alla quale mi devo abituare. Trasmetto un solo segnale, in diffusione su ogni canale. Sono alle prese con momenti taglienti, movimenti di avvenimenti, eventi deludenti. All'infano come cazzotti per farmi saltare i denti. Cosciente che l'odio che covo non mi porta lontano. Consapevole però che lo stesso odio che odio è lo stesso che amo. Quello che mi chiama sardo d'occo o brano. È un mondo finto di pupazzi tipo Toy Story. Noi stiamo nella merda qua fuori, ancora brano e fiori. E voi volete farmi credere che tutto pace amore come nelle love story. Le mie parole, le mie rime, i miei suoni, il mio disco. Muore e finisce tutto lo stesso istante nel quale registro. Fisso, varie facce circondano in sì quando dorme. La psicosi costruisce forme e segue orme. Al mio risveglio la libertà è solo una statua enorme. Cinema, visione poco nitida, qua la risoluzione minima. Una presa per il culo costante, programma pesante, trasmissione poco esaltante. Cinema, visione alla quale mi devo abituare. Trasmetto un solo segnale, in diffusione su ogni canale. Porto secondi che restano come i pesi che pesano, come rime che pestano, testano. Storie di un'esistenza che si consuma, di un'immagine che si sfuma. Benvenuti alla ruota della sfortuna, dove ogni sogno si frantuma. Non è solo un presentimento, guardo e sento immagini riflesse di uno schermo in frantumi sul pavimento. Scrivo duro, se la fitta tira in culo, fa un culo. Tra odio e fumo, senza un futuro, alcun aiuto, nessuno. Solo grida di dolore nella via, storie che ti portano via. Per ogni notte ribelle, sono cicatrici sulla pelle. Sono di quelle notti che non ti scordi mai. È la notte che ci accompagna, è la notte fra la vera compagna. Di lacrime perse ci bagna, ci tradisce e ci guadagna. E l'odio scritto come gesso su una lavagna.